Siamo entrati nell'ottava di Pasqua, che è come tutto un lungo giorno di Pasqua, che è molto opportuno per noi perché lungo tutti questi giorni, che sono un solo giorno, che sono la Pasqua che si prolunga, noi possiamo meditare, riflettere, come sicuramente accadde allora, no? Ai nostri primi fratelli nella fede, alle nostre prime sorelle nella fede, dopo aver vissuto quegli eventi così, così forti, così violenti e scioccanti come la morte del Signore in croce, la sua passione, e poi la gioia immensa e per alcuni anche difficile da credere della risurrezione, di questa vita nuova che il Signore ha ripreso con sé per donarcela. E loro, e alcuni di loro proprio non riuscivano a capire e non riuscivano a credere, quando leggeremo mercoledì prossimo nella messa il Vangelo dei due discepoli di Emmaus, rivivremo con loro questa difficoltà a credere, nonostante che le donne, alcune donne del nostre, no? Dicevano loro a quel viandante sconosciuto che si era unito a loro, gli avevano detto che era risorto, ma loro però non l'avevano ancora visto e quindi non credevano. È una cosa così, così grande, così nuova, e quasi quasi probabilmente appunto per loro credere, vedere Gesù che ridona la vita a Lazzaro, al figlio della vedova di Nain e alla figlia di Gairo, e questo ancora accadeva e lo vedevano con i loro occhi, però era Gesù che lo operava, ma essendo lui stesso è stato così appeso alla croce e da lì non scendeva, nonostante che gli dicessero scendi perché noi possiamo credere che sei il figlio di Dio, e quindi era finito tutto. Allora loro hanno avuto bisogno di questi giorni per meditare, anche per riflettere tra di loro, per raccontarsi quello che avevano visto, per ricordare quello che Gesù aveva loro detto, e probabilmente anche le cose che Gesù disse quella sera del primo giorno dopo il sabato, il giorno della sua risurrezione, noi potremmo dire oggi quella sera della Pasqua, della domenica di risurrezione, ai due discepoli di Emmaus, che gli ha spiegato lungo la strada tutto quello che era accaduto a partire dalle scritture, facendogli notare che era tutto previsto. Questi argomenti loro li avranno raccontati e poi sono rifluiti anche nella predicazione degli apostoli e nell'elaborazione interiore che poi è rifluita nelle tradizioni orali e poi dopo nei Vangeli. Per esempio oggi nella messa leggeremo dagli Atti degli Apostoli il discorso di Pietro, che con gli undici si alzò in piedi e parlò così, e quindi riferì agli abitanti di Gerusalemme, a quelli che erano convenuti per la Pentecoste, gli riferisce tutti questi eventi, però già meditati, riflettuti, rielaborati e sulla base della fede nella risurrezione del Signore. Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. E a questo punto Pietro racconta, cioè spiega loro, utilizza come argomento quello che Davide dice a suo riguardo. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. E subito dopo Pietro può dire a loro: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi tra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. E questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha resuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Pietro, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo nella Pentecoste, ecco, si rafforza, la sua mente è più illuminata, ma anche queste riflessioni sono riflessioni che hanno fatto tra di loro, e a me piace pensare che sia anche questo un argomento a favore della resurrezione della Bibbia che loro conoscevano, che noi oggi chiamiamo Antico Testamento, dei Salmi, che Gesù ha citato in quella strada che andava verso Emmaus da Gerusalemme, insieme a quei due suoi discepoli increduli e abbattuti, come racconta San Luca, che partendo da tutta la legge e i profeti, racconta loro che era tutto previsto nell'Antico Testamento, nella Bibbia, nella Scrittura, e adesso che loro hanno riflettuto, hanno creduto, hanno anche visto Gesù, lo hanno toccato con le loro mani, lo hanno riabbracciato, hanno potuto vedere le sue piaghe, hanno messo le loro mani nelle mani piagate di Gesù, sono piaghe ormai risorte, ormai anche guarite, ma rimaste aperte, perché i discepoli potessero comprendere che adesso potevano entrare dentro la vita di Cristo attraverso queste fenditure, che potessero prestargli le loro mani e diventare una sola cosa con lui. Quindi da adesso in poi le mani degli apostoli sono le mani di Gesù che guariscono, che donano l'olio santo, che benedicono, che offrono il sacrificio dell'Eucaristia in ricordo di quel mistero della Pasqua, di quella passione, morte e risurrezione di Cristo. E sono più consapevoli di questo, e allora ecco, noi anche possiamo cercare di proporci di vivere in questa ottava di Pasqua, di tenere la riflessione e la meditazione sugli eventi che abbiamo vissuto in questi giorni, gli eventi che riguardano la Pasqua di Gesù che abbiamo rivissuto come presente attraverso la liturgia, e anche le vicende personali e apostoliche e di vita interiore, di vita spirituale, le scoperte dell'orazione, no? Tutte le cose che il Signore ci ha detto in questi giorni personalmente a noi e anche a noi tutti insieme, no? Come per esempio può essere utile rileggere le cose che il Papa ha detto in questo triduo santo, anche il salmo che leggeremo nella messa è un salmo che in qualche modo predice la risurrezione, no? Vedete, io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare, benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce, per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. È questa che i contemporanei probabilmente non comprendevano, non potevano comprendere fino in fondo, forse la potevano applicare alla risurrezione futura, ma letteralmente questo salmo si può applicare solo a Gesù nella sua pienezza. È Gesù che prega così e pensando al suo sepolcro: mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra, no? La gioia di Gesù, la gioia di Gesù risorto, che lui desidera che passi a noi. Vi ricordate quei passi dei discorsi dell'ultima cena che San Giovanni riferisce? Quante volte Gesù dice che ci dice queste cose perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena. E mi colpiva che ieri, anzi nella notte di Pasqua, nell'omelia del Papa durante la veglia, parlava di una gioia umile, una gioia che non offende chi sta nel dolore e nella prova, non è una gioia ostentata e che come una ricchezza di cui ci vantiamo, è una gioia umile perché è ricevuta, che però si può diffondere, anzi possiamo pensare e dirlo a Gesù, Gesù risorto che ci vedi, che ci ascolti, che qui dal tabernacolo abitato dall'Eucaristia ci presiedi, e noi possiamo e chiederti questo, un aumento della gioia e anche una capacità di diffonderla insieme all'annuncio che Cristo è risorto, quell'annuncio che per i nostri primi fratelli nella fede era l'essenza dell'apostolato, era l'essenza del mandato che avevano ricevuto, è proprio il primo. Oggi nella messa rileggiamo una parte del Vangelo che abbiamo letto quest'anno nella veglia pasquale, quello di San Matteo, e sono le due donne, Maria di Magdala e l'altra Maria, dice Matteo, e sì, l'ha citata anche prima, anche sotto la croce, è la madre di Giuseppe e di Giacomo. Tra l'altro è molto bello e suggestivo comprendere che c'è una mamma che viene chiamata dal Signore ad andare dai suoi figli, che sono discepoli di Gesù, a dire loro: guardate che Cristo è risorto. E questo è molto importante per tenere presente il grande ruolo che hanno le mamme, ma in generale i genitori, nei confronti dei figli che hanno ricevuto una vocazione specifica nella Chiesa e per Gesù hanno un ruolo di rafforzamento di questa vocazione, di sostegno, cioè continuano la loro maternità e non finisce mai. Queste donne hanno ricevuto l'annuncio dall'angelo di andare dai discepoli a dire che il Signore è risorto e vanno e credono, quando San Matteo dice: in quel tempo abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, c'è già la gioia della risurrezione. Quindi le donne del Vangelo, come dicevamo tra noi, che nella vicenda della passione effettivamente non, tranne la giovane portinaia della notte, non hanno un ruolo negativo, anzi hanno solo un ruolo positivo di aiuto a Gesù, di sostegno, di tenerezza, di compassione. E adesso anche nella risurrezione hanno addirittura il primo ruolo di annuncio della risurrezione avvenuta e diventano apostoli degli apostoli. E queste donne vanno con timore e gioia grande, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Questo è molto interessante meditare su questo fatto che Gesù non è stato lui ad apparire per primo, e nel racconto di Matteo, nel racconto di Giovanni sì, invece è lui che appare a Maddalena e la manda, in questo caso è l'angelo, ma lui appare come a dire: guardate che quello che vi ha detto l'angelo viene proprio da me, sono io che gli ho detto che ve l'ho mandato. Pensate come nella nostra storia, nella nostra vocazione, nello sviluppo della nostra vocazione, quante volte il Signore ci parla attraverso gli angeli, forse noi non ce ne accorgiamo nemmeno, ma molte ispirazioni sono gli angeli che vengono a portarcele, no? L'angelo custode e gli arcangeli, San Raffaele, San Gabriele, San Michele, oppure altre persone che sono come angeli in mezzo al mondo e che vengono da parte del Signore, magari senza esserne loro in quel momento pienamente consapevoli, a darci un suo comando. E il Signore però sta sempre con noi, in qualche modo sta sul nostro cammino e trova il modo di dirci: io sono con te, guarda che questo suggerimento che hai ricevuto viene proprio da me, io sono d'accordo, e ti accompagno, non ti abbandono, non ti lascio solo, non ti lascio sola. Questa dimensione della solitudine, che è una prova di Gesù, sulla croce anche lui aveva detto: mi lascerete solo, poi effettivamente la Madonna e sua madre, nostra madre, gli sta accanto, Giovanni il discepolo amato, le altre donne, quindi in effetti non è una solitudine completa, però come prova dell'anima forse sì, tanto che Gesù a un certo punto dice quella frase così misteriosa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Proprio il Padre, voi mi lascerete solo, ma il Padre con me, e proprio ha la percezione dell'allontanamento di Dio. E poi è solo a un certo punto è solo nel sepolcro, devono lasciarlo, devono chiudere la pietra, devono tornare a casa perché perché è il sabato, perché devono riposare, devono, e anche se prepareranno così qualche unguento da portare poi dopo il sabato da lui, e Gesù risorge da solo, non c'è nessuno. In un certo senso forse è logico che sia così, perché è una cosa così grande, così forte, che non avrebbero potuto neanche sopportarla umanamente, no? E voi sapete che San José Maria in quell'omelia verso la santità, che poi è una meditazione che lui fa a persone grandi dell'opera che stanno, ecco, sparse nei vari continenti, erano i suoi delegati nelle varie nazioni, lui fa una meditazione come sintesi della sua vita nel 1967, e incoraggiandoli a stare vicini a Gesù Cristo diceva: non ci dobbiamo meravigliare se, stando vicini a Cristo, poi assaporiamo tante, ecco, dolori, incomprensioni, e anche, diceva, solitudine. È sorprendente perché, senz'altro, soprattutto in quell'epoca, sappiamo che San José Maria era molto accompagnato da tante persone, non stava quasi mai solo. È una prova dell'anima, non è un fatto esterno, fisico, è una prova dell'anima, che quindi io chiedo al Signore che se dovessi qualche volta provarla, o qualcuno di voi, possiamo avere questa luce per dire: beh, è una prova che Gesù ha provato, e allora ci può avvicinare a Lui, e così, avvicinandoci a Lui, superiamo la solitudine. Allora loro vanno incoraggiati da Gesù, e se si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E anche l'omelia del Papa durante la veglia si è incentrata abbastanza su questo comando di andare in Galilea, che in effetti può sembrare un po' singolare o non capirsi subito. Sia l'angelo sia Gesù dice in Galilea, e poi il Vangelo di San Matteo effettivamente si conclude con questo in Galilea, su un monte della Galilea che aveva loro indicato. Si trovano i discepoli, e quello è il luogo dove Gesù gli dà il comando apostolico definitivo: andate in tutto il mondo, battezzate, insegnate, battezzate. E il Papa lo interpreta come il ritorno al luogo dove è cominciato tutto. Quindi in effetti molti sono di lì, San Pietro lo riconoscono dalla parlata, la parlata dell'accento della Galilea, no? Erano di Bethsaida, erano Gesù di Nazareth, e poi lì, ecco, attorno al lago, no? Ci sono state le prime vocazioni, le prime chiamate, poi a Cana di Galilea i primi miracoli, a Cafarnao il luogo è la casa dove si è stabilito e dalla quale partiva, e lì stesso in Cafarnao ha fatto tanti prodigi, no? Tanti miracoli. E il Papa diceva: hanno bisogno di ripensare a tutta la storia avvenuta sulla base della croce, della morte in croce e della risurrezione. Allora, in effetti è quello che loro fanno, e poi ce lo porgono, per esempio, nei Vangeli, e tutto quello che Gesù ha fatto, ma è visto già tutto quanto nell'ottica, sapendo della risurrezione, sapendo che si sarebbe concluso così. Dicono che i Vangeli sono come un'introduzione al racconto della passione e della risurrezione, tutti e quattro. Quindi tutto quello che hanno vissuto è visto sotto quella luce, e il Papa incitava anche noi a tornare, lui diceva, alla Galilea del battesimo, dove è cominciato tutto, la nostra vita cristiana, ma anche alla Galilea dell'inizio della vocazione, e quella scintilla, no? E poi ha acceso il fuoco, e nella notte di Pasqua è un'immagine che si prende dalla, ecco, dal braciere, una scintilla per accendere le candele di tutti, no? E dal fuoco dell'amore di Cristo una scintilla è arrivata nel nostro cuore, e noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo amato, l'abbiamo seguito. E il Papa incitava proprio, dice: andiamo in Galilea, facciamo questo percorso interiore. E io penso che un po' anche forse, e questo tornare in Galilea significa anche tornare nei luoghi che sono per loro il luogo della nascita, il luogo del lavoro, no? Il luogo dell'origine, no? Quindi le proprie radici. Quindi forse questo ci dice anche che Gesù, quando ci manda in giro per il mondo, come fa con i suoi discepoli andati in tutto il mondo, però non li vuole come sradicati umanamente o anche culturalmente, cioè è valida quella loro nascita, quella loro cultura, quella loro lingua, quella loro esperienza iniziale è valida, e in qualche modo li aiuta a riscoprirla, e gli dà forse anche, come dire, un fondamento, no? Anche se poi devono andare in tutto il mondo, e rimane quella radice che questo dà al compito apostolico, al compito missionario della Chiesa, una grande umanità, una grande umanità. Ecco, allora noi possiamo scoprire queste Galilee nella nostra anima, nel nostro cuore, e obbedire a questo suggerimento del Papa, e nella nostra vita spirituale tornare in Galilea, però sapendo che Gesù è risorto e che ci appare e che ci manda di nuovo. Quindi il Papa forse, anzi sicuramente, è consapevole, profondamente consapevole della necessità di fare questo viaggio interiore per le persone che sono state chiamate con una chiamata forte, specifica, chiara, a dedicarsi a Lui, al Signore nella Chiesa, e perché accadono tante cose nella nostra vita. In quei 3 anni a questi discepoli sono accadute tante cose belle e tante cose e tante sofferenze. Nello stesso Vangelo che oggi leggiamo, mentre queste donne corrono piene di gioia e di timore grandi a dare questo annuncio ai discepoli, subito dopo l'Evangelista dice: mentre essi erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Un controannuncio, un antiannuncio. E questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo, e se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Mentre c'è la gioia della resurrezione, parallelamente, nella vita del mondo, accadono queste altre cose non edificanti, no? Queste cose negative, i cuori chiusi all'annuncio della resurrezione. Sentono dire quello che è successo, quindi forse sentono dire proprio che il Signore è risorto, no? e che hanno visto un angelo che diceva queste cose alle donne. Allora, come accade anche a noi, accade ai nostri primi fratelli e sorelle nella fede, di avere nella nostra vita grandi gioie, grandi grazie e poi grandi difficoltà, prove o piccole. E allora tutto questo abbiamo bisogno di leggerlo sotto la luce della croce tua, Gesù, della tua risurrezione, scoprirti sul nostro cammino che ci vieni incontro, che ci saluti, che ci incoraggi, che ci benedici, che ci mandi, che non ti preoccupi se, come accade poi a questi discepoli che vanno in Galilea sul monte, non ti preoccupi se c'è poca fede, perché è sorprendente che San Matteo racconti che alcuni di loro dubitavano, e nonostante questo dubbio il Signore gli dà lo stesso il mandato missionario, perché sa che c'è la potenza del suo Spirito Santo, la potenza della sua grazia che supera tutte le nostre debolezze. Allora noi cogliamo questi suggerimenti e andiamo nella nostra Galilea interiore, nella Galilea della nostra vita, della nostra storia, a riprendere l'inizio e a incontrare Gesù risorto con lo sguardo benevolente, benedicente e il sorriso della Madonna.